fumata dai fiori di maggio. C'è qualcuno che ha fatto la spia, in questura si sparge la voce che il capista si è chiuso lì dentro. I fascisti stanno arrivando, Dante capisce, lo sa, che il tempo è quasi scaduto. Ognuno ha fatto una scelta ed il tempo la giudicherà. Di Nanni capisce, lo sa, che se ti prendono vivo si parla o si muore. In strada rumore di grida e tumulto di passi, una bomba esplode, sfigura i contorni del giorno. Sovrasta le urla dei mitra, perché un sogno che muore scannato fa sempre così. Onore a chi ha fatto una scelta, che è quella di prendere parte, non guardare da una finestra, ma giocarsi la vita e la morte. Oggi si scrive la storia, e sopra i muri di ogni città, quattro parole nel sangue, lottare per la libertà. Nel caricatore del mitra restano sia 9 venticorni. Di Nanni toglie un proiettile e se lo mette in tasca. Poi prende la mira tra le sbarre e spara. Il primo nazista cade, il secondo lo manca, ma il terzo no. Ora sparano dalla strada, dal campanile e dalle case intorno. Gli stanno addosso, non ha più scampo. Toglie in tasca l'ultima cartuccia, la innesta e arma il carrello. Forse sarebbe il caso di finirla qui. E mentre intorno sparano ancora, punta l'idra al campanile e aspetta. Quando viene il momento mira con cura e l'ultimo fascista muore sul colpo. Adesso non c'è più niente da fare. Allora Di Nanni si alza e in piedi aspetta i suoi colpi, ma intorno solo silenzio. We'll be right back.